Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. Prendete un sabato pomeriggio qualsiasi e una ragazza che si mette d'accordo con le amiche per andare a fare un giro in centro. Le decine di SMS per darsi appuntamento sono più un gioco che un servizio, perché il rituale è uguale tutte le settimane. Pranzo a base di hamburger e patatine, risate e chiacchiere sui piccoli e grandi problemi di cuore e qualche commento sull'ultimo look di Lady Gaga. Che questa ragazza sia di Roma, Parigi, Buenos Aires o Beirut, farà shopping negli stessi negozi e comprerà le stesse cose. Jeans a vita bassa, felpe in stile grunge da sovrapporre a magliette strappate ad hoc, scarpe usate e accessori di finta pelle fintamente provocatori. Curiosando per le strade di Londra, si scopre che essere in significa mescolare tendenze. Hello, how would you describe your look? Vintage. Vintage. Yeah. And show us what you're wearing today. Where did you buy this jacket from? It's from Topshop. I love your white shoes as well. They're from Topshop as well. Do you normally buy your clothes from Topshop? I buy most of my clothes from Topshop. I buy a lot of vintage stuff as well off eBay. So it sounds like you kind of mix vintage old pieces with high street pieces. Yeah, definitely. Oggi il movimento della moda è circolare, perché così come le persone si ispirano alle riviste e alle sfilate, gli stilisti guardano la gente per strada per creare le loro collezioni. La moda non è più elitaria, è democratica. Non perde occasione per ripeterlo Franca Sozzani, la direttrice dell'edizione italiana di Vogue. Lo sviluppo di questa iniziativa è di ritrascinare le persone nei negozi, di capire che comunque la moda non è qualcosa di chiuso, ma può essere aperto a tutti e che ovviamente ci sono prezzi diversi, ma c'è un grande anche sforzo da parte degli stilisti di dare dei prezzi e di accontentare di più il consumatore. Ogni accostamento è lecito e nonostante la forte voglia di originalità, tutto sembra essere già stato inventato. Anzi, paradossalmente, più si ricerca, dai mercatini alle catene low cost, uno stile unico, eccentrico, e più si tende all'omologazione. Ma non era così alla fine degli anni 70, quando il mondo intero stava cambiando a colpi di punk e disco dance. Una coppiata parallela ma totalmente in contrasto, cattiveria e pessimismo, disagio e oscurità delle periferie inglesi contro paillette, lustrini e luci stroboscopiche nelle discoteche di New York. Da un lato, una musica arrabbiata, dura, ribelle. Dall'altro, note frivole da ballare tutta la notte. Da una parte il nero, gli anfibi e le spille da balia, dall'altra i colori fosforescenti e i capelli cotonati. Ma una donna, la nostra prima protagonista di oggi, è riuscita a fondere questi due mondi per crearne uno tutto suo. È una stilista, designer, art director e fotografa. Il suo nome è Marie-Paul. Marie-Paul. Vieni Marie-Paul. Te chiedo. He loves me. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Restare o andare? Si chiede un'appena maggiorenne Marie-Paul cresciuta in Francia e divisa in due nell'anima tra un profondo attaccamento alle radici e la voglia di vedere il mondo. Non ha ancora ben chiaro quello che farà, ma ha la determinazione di chi immagina già di arrivare lontano. Sa soltanto che le interessano l'arte, la moda, la fotografia. Una passione, quest'ultima, che coltiva con l'uomo che le sta accanto, il fotografo Edo Bertoglio, ma che parte da molto lontano, da una tradizione di famiglia. Mio nonno, che era nell'esercito durante la Prima Guerra Mondiale, faceva il fotografo di guerra. Ho visto le foto che ha fatto. Mio zio era un dottore durante la Seconda Guerra Mondiale e ha scattato foto a dei soldati veri che erano così sexy. E mio padre ci ha sempre scattato foto o fatto film. Aveva una cinepresa Super 8 e comprava sempre le ultime novità. Edo e Maripol si amano. La loro vita è costruita su un'intesa profonda, che è condivisione totale della vita, dal privato al lavoro. Per questo motivo decidono di partire prima lui e poi lei alla volta di New York. Quando sono arrivata a New York avevo 19 anni e sono arrivata col mio ragazzo, il fotografo Edo Bertoglio. Ci amavamo ed ero venuta qui per 3 mesi. Frequentavo ancora la scuola d'arte. Trovai un appartamento già pronto perché il mio boyfriend venne 6 mesi prima e avevamo programmato tutto. I miei genitori non mi avrebbero fatto partire altrimenti. Edo è un artista, ma non è il folle sregolato che ci si aspetta dallo stereotipo. Maripol si fida di lui, sa che lui la proteggerà, che starà con lei e la aiuterà ad ambientarsi nella città meravigliosa dalle mille identità, nella giungla urbana che in quegli anni è l'ombelico del mondo. I soldi che hanno in tasca sono pochi e soprattutto all'inizio, quando lei non conosce ancora nessuno e nemmeno parla bene inglese, lui è una figura fondamentale. Io ho la tendenza a prendere le cose molto alla leggera, a non vivere mai in modo pesante, a vedere le cose sempre come positive e belle. Giorno dopo giorno, Maripol prende confidenza con le strade, con gli angoli, con i caffè di New York. Le piace girovagare senza meta, in cerca di qualcosa che neanche lei sa bene. Ama entrare nei negozietti gestiti da immigrati che vendono cianfrusaglie al prezzo di pochi centesimi di dollaro e chiacchierare con i proprietari, sapere da dove vengono, qual è la loro storia, cosa li ha spinti lì. Nei mercatini di quartiere si diverte a sollevare le montagne di abiti usati per trovare qualcosa che le piaccia. Ha cominciato a lavorare come stylist per qualche servizio fotografico e nella ricerca degli accessori giusti mette tutta se stessa. Sa quanto è importante per una buona riuscita degli scatti. Non c'è ancora la cultura del vintage, né tantomeno quella del riciclo. Ma Maripol è una donna che precorre i tempi e guarda sempre oltre. Non trovavo mai niente che mi piacesse quando preparavo degli styling fotografici. Così decisi di produrre io stessa cose che mi piacessero. Inoltre ero una ragazza giovane ed ero attratta dagli oggetti e mi piaceva usarli stravolgendo il loro uso originario. Vedevo qualcosa che mi piaceva e dicevo, quello starebbe benissimo come orecchino. Creatività è la parola chiave per descrivere lo spirito di Maripol. La sera, quando entra in casa, è entusiasta di mostrare a Edo quello che si è inventata, una vecchia catena da bicicletta che diventa una collana, un centrino della nonna da usare come cappellino, delle vecchie chiavi di un cancello da appendere al collo come un ciondolo. Lui commenta, ride e apprezza da fidanzato, ma c'è un uomo in quel momento sulla cresta dell'onda a New York che decide di fare della sorprendente Maripol il suo braccio destro. È l'eccentrico stilista italiano Elio Fiorucci. La mia carriera da professionista in America è cominciata quando sono diventata art director al Fiorucci Fashion Store sulla 59esima strada. Era il 1976. Il 1977. In poco tempo Elio mi ha mandato in giro per il mondo a curare le sue collezioni. E quello era anche il periodo nel quale ho creato la mia prima collezione di gioielli in gomma, nel 1978. Quella fu la prima linea di accessori e di gioielli per Fiorucci. Gli accessori in gomma di Maripol sono una sintesi perfetta dello stile Fiorucci. Giocosi, divertenti, facili da portare in ogni occasione, anche per sdrammatizzare le più ufficiali. Il passaparola corre veloce e tutti vogliono indossarli perché rappresentano la legittimazione della voglia di tornare bambini. Il grande stilista italiano riconosce nella piccola francese l'intuito che serve per farcela. Quello che facciamo noi della moda, stilisti di moda, è quello di, come dire, sentire in anticipo il bisogno della gente, cioè se c'è bisogno di minigonna lo devi sentire, che le ragazze hanno voglia di scoprirsi le gambe, lo devi sentire, è una cosa naturale. It's time for jazz and die, fourth day of November. Per Maripol, con gli accessori per Fiorucci, arrivano le prime gratificazioni personali e anche quelle economiche. Edo, il suo fidanzato fotografo, condivide ogni suo successo, sentendosene parte, e la sostiene nella sua crescita di professionista e di donna. Non è ancora famosa, ma sta cominciando a trovare la sua strada. Con lei vive al 100% la vibrante realtà della Grande Mela. Abbiamo vissuto uptown per 3 anni, dal 1976 al 1979. Avevamo un Harley Davidson e la gente ci chiamava i punk di downtown. Poi abbiamo deciso di trasferirci downtown perché avevamo bisogno di uno spazio più grande e abbiamo trovato un loft sgangherato e quello fu l'inizio. Abbiamo trovato lo spazio giusto e quella era la cosa migliore. Abbiamo cominciato a fare feste, fotografie ed eventi. C'erano tutti. Nel loft di Edo e Maripol passano proprio tutti, da personaggi anonimi a grandi star. Ogni sera c'è qualcuno che mostra i suoi disegni, qualcun altro che porta una tela appena finita, qualche ragazza che canta. Si mangia, si chiacchiera e c'è sempre un materasso pronto per chi vuole fermarsi a dormire. L'atmosfera rilassata e creativa ricorda in piccolo quel luogo magico, vicino e mitico che è il vero simbolo della New York di quegli anni, la Factory di Andy Warhol. Maripol è di casa, nel regno del grande artista della pop art. Lui è il suo soggetto preferito per sfogare la sua seconda grande passione, la fotografia. La Factory è una sorta di officina di lavoro collettivo, uno spazio per produrre idee che Andy Warhol ha affittato al quinto piano di un palazzo della 47esima strada a Manhattan. Qui, tra droghe, musica e fiumi di alcol, si respira un'aria di pura libertà. Nessuno giudica nessuno. È come un universo parallelo che appartiene a New York, ma che sa anche tenerla a distanza. È aperto a tutti, perché la filosofia di Warhol si basa sulla democrazia, nella vita e nell'arte. Che deve essere accessibile o, in una parola, popolare, pop. A descrivere questo clima e la rivoluzione Warhol è il film Factory Girl. Vuoi comprare un quadro? Perché tutti questi carciofi pagano una fortuna per una lattina di zuppa? Che ci fanno? Vabbè, devi guardare oltre quello che è ovvio, sai? Sono stupido? Io non capisco. Stai facendo un po' lo stupido, sì. Voglio dire, non credi che sia eccitante? Neanche un po'. Sì, sarà anche solo un quadro, ma è un'idea. E l'uomo dietro quell'idea è la cosa interessante. Alle pareti del leggendario loft argentato ci sono opere di tutti i tipi e altrettante ce ne sono appoggiate sul pavimento, astratte, colorate, provocatorie. Quelle opere ancora in fase di lavorazione o abbandonate da giorni per dedicarsi ad altro sono le stesse opere che ora sul mercato valgono milioni di euro. Jean-Michel Basquiat, Francesco Clemente, Keith Haring, giovani artisti in erba, sono solo alcuni degli autori scoperti dal re della pop art. Ma anche star della musica come David Bowie, in quell'enorme stanza, hanno passato interi giorni e intere notti. Non riuscivo a farne a meno. Passavo di lì e c'era sempre qualcosa di nuovo da vedere, qualcuno che aveva inventato qualcosa. Sembrava che tutto succedesse lì dentro. Arte, sogni, litigi, amicizie, amori. Naturalmente c'è posto anche per la moda, nella sua massima forma di sperimentazione. Tom Ford, il grande stilista e ormai quotato regista, disegna i suoi primi bozzetti proprio qui, seduto su una poltrona di pelle. Nico, dei Velvet Underground, fa scuola con la sua frangia piena e importante. E Maripol, dopo aver messo al polso di un'ancora sconosciuta Grace Jones i suoi braccialetti di gomma, inforca la sua macchina fotografica e scatta Polaroid a raffica. Le Polaroid hanno qualcosa di speciale. Semplicemente catturano l'istante. Tutto lì. Sta in quello il loro fascino. La scatti, la vedi. Non devi andare a farla sviluppare dal fotografo. Era la foto digitale prima dell'era digitale. Contorno bianco è un quadrato che racchiude frammenti di un'epoca. Chiunque passi dalla Factory viene immortalato dall'obiettivo graffiante di Maripol. Edo le ha insegnato molto sul piano tecnico, ma è lei che ha una capacità innata di cogliere le sfumature dei volti, delle espressioni, delle pose. Là dalle figurine. Ha sempre saputo quando era il momento giusto di schiacciare il bottone. Non un secondo prima, non un secondo dopo. E così è riuscita, fotografia dopo fotografia, a fare un affresco della Factory di New York e di tutto quel mondo di cui anch'io e lei facevamo parte. Mostre, feste, vernissage, eventi. Il problema nella sfavillante New York non è mai trovare qualcosa da fare, ma riuscire ad approfittare delle mille opportunità che offre tutti i giorni. Maripol è perfettamente a suo agio in quella realtà. È amica intima di Andy Warhol. Tra di loro è un continuo scambio di stimoli. Andy era dolcissimo. Era una persona meravigliosa. Non era snob, non guardava mai nessuno dall'alto in basso. Era affascinato dalla gente e dal glamour. Si apriva a chiunque. Maripol, come Warhol, accoglie i giovani squattrinati appena arrivati in città, nei quali, nonostante l'inesperienza, riesce a intravedere un talento. Anche a lei, pochi anni prima, era andata così, quando Fiorucci l'aveva scelta per seguire il suo store come art director. Era partita dalla Francia senza soldi, con in mano, o per meglio dire nella testa, soltanto le sue idee, e a New York è riuscita a realizzarle. Ma ora il destino ha in serbo per lei una sorpresa ancora più grande, la vera svolta della sua vita. Scopriremo cos'è tra poco a Destini Incrociati. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo a New York all'inizio degli anni Ottanta. E la città è il centro del mondo, sensazionale, alla moda, sempre più avanti di qualsiasi altro luogo del pianeta. È per questo motivo che una giovane coppia innamorata e con tante speranze si è trasferita qui dalla Francia. Lui è il fotografo Edo Bertoglio e lei è l'eclettica stilista Maripol, che ha in mente soltanto una cosa: usare la moda per divertirsi. All'inizio non è facile lavorare con così tanta concorrenza, ma in poco tempo la sua determinazione convince tutti. A partire da Elio Fiorucci, che la vuole come art director del suo fashion store sulla 59esima strada. Forse perché riconosce in lei la quintessenza della creatività. La creatività la si trova guardando il mondo, curiosando. Viaggiando, cercandola, perché la creatività esiste. L'uomo è un continuo creativo, si crea continuamente qualche cosa. Una definizione perfetta per Maripol. Proprio per Fiorucci comincia a disegnare i suoi braccialetti di gomma colorati, che diventano all'interno di quella sorta di mondo parallelo che è la factory di Warhol, un must. Li indossa anche la pantera nera della dance, Grace Jones. Eppure tutti li ricordano ai polsi di un'italo-americana non particolarmente bella, non particolarmente dotata a livello vocale, ma che grazie alla sua grinta e al suo carisma è diventata una delle più grandi icone pop del XX secolo. È la nostra seconda protagonista di oggi e il suo nome è Madonna. Madonna. Louise Veronica Ciccone, fisico da eterna ragazzina, incisivi leggermente separati e sguardo di chi sa esattamente cosa vuole, non ha bisogno di molte presentazioni. Sicuramente dopo 30 anni di carriera, se buttate l'occhio verso il vostro porta riviste, la potete vedere ancora su diverse copertine. Originaria del Michigan, nata e cresciuta nella profonda provincia americana, tra corsi di danza e lezioni di canto, fin da adolescente non vede l'ora di scappare alla ricerca del successo. Quando ha solo 19 anni, raccoglie poche cose in una borsa e parte per tentare la fortuna a New York. In tasca avevo soltanto $35 e neanche un posto dove vivere. Stavo dagli amici, un po' da uno, un po' dall'altro. Ero una ballerina come centinaia di altri e tutti provavamo le stesse cose, le stesse frustrazioni, la stessa povertà. Siamo stati tutti affamati e in cerca di lavoro. Non è facile racimolare i soldi per la cena e Madonna prende al volo qualsiasi occasione. Per esempio lavora in maglietta e cappellino divisa d'ordinanza al bancone di una catena di fast food. È un ritmo ripetitivo, estenuante per una come lei che ha l'ambizione di diventare una stella. Ma una sera, mentre sta porgendo un vassoio con bibita e hamburger, il suo sguardo incontra quello di Dan Gilroy. È un amore a prima vista. Lui le insegna a suonare la chitarra e si mette a fianco a lei per darle lezioni di batteria, lentamente, con infinita pazienza. È anche un paroliere e tra i due nasce un vero e proprio sodalizio artistico. Ogni pomeriggio, cambiando sempre luogo in cerca di ispirazione, scrivono canzoni a quattro mani. La giovane italo-americana è volenterosa e pronta ad assorbire ogni parola come una spugna. Sa che deve essere completa artisticamente per riuscire a sfondare. Yeah. Madonna ama New York. Non ha viaggiato molto finora, ma non ne sente il bisogno perché ha la certezza che è questo il posto che fa per lei. Folle, prospera, cosmopolita. In giro ci sono facce di ogni tipo, volti segnati da storie che Madonna si diverte a immaginare, storie di businessmen che scendono da lunghe macchine con i vetri oscurati, di broker pieni di brillantina che corrono per la città in taxi, e infine la massa variopinta di umanità che popola la metropolitana. Madonna, del resto, non può certo prendere il taxi. Il taxi non potevo permettermelo. I soldi servivano per mangiare e per comprare i vestiti. Anzi, le priorità erano invertite. Potevo anche saltare qualche cena, ma se trovavo una gonna speciale, doveva essere mia. La cosa più istintiva per una ragazza sola che non può contare nemmeno su suo padre, arrabbiato con lei per la sua decisione di lasciare la scuola, è cercare qualcuno come lei con cui dividere la vita e le spese. Lo trova in Martin Burgoyne, aspirante stilista che comincia a starle vicino in ogni momento. Risate, scherzi, pianti, le consolazioni per i problemi che entrambi hanno con gli uomini. Sanno che possono contare sempre l'uno sull'altra, ma che per il resto devono cavarsela da soli e da soli provare a diventare qualcuno. E così, mentre contatto dopo contatto il lavoro e la creatività di Martin decollano, Madonna continua a provarci in tutti i modi, senza mai rifiutare nulla. Non dice di no ad alcuni film di serie B e non dice di no quando le propongono di posare nuda per alcune riviste maschili. Ha un bel corpo e nessun pudore, una forma di ribellione che le viene dall'aver frequentato rigide scuole cattoliche e che ora cerca di tirare fuori come può. Ho sempre avuto problemi con il Vaticano. Mi sono sempre sentita molto spirituale, ma è il rigore che mi spaventa. Io volevo essere libera, libera di esprimermi in ogni modo. Era per quello che stavo a New York ed era per quello che avevo scelto questo nome. Dopo mille audizioni, armata di concretezza e determinazione, riesce finalmente a entrare nel prestigioso balletto di Alvin Ailey. Non è la numero uno, non è la più talentuosa nella danza e tantomeno nel canto. Però ha la capacità innata di tenere la scena in un modo impensabile per chiunque. Ha una marcia in più. Lei soltanto con la sua presenza, il palcoscenico lo riempie, lo scalda e allo stesso modo scalda chi la guarda. Non solo, ha già i semi di quella unicità che il critico rock Piero Scaruffi sintetizza così. Madonna è una performer. In lei arte e vita si fondono e confondono. Ha un piglio sarcastico e nichilista che riflette l'atteggiamento casual e amorale di tanta gioventù bruciata dei ghetti intellettuali, facile tanto alla vita di strada quanto al glamour del successo. La sua è una personalità drammatica, cinica, distaccata, forte di un retroterra di promiscuità sessuale e di precoce indipendenza. È un'eroina romantica e fatalista, cresciuta tra civiltà punk e civiltà disco. Negli anni Ottanta la disco è nel suo momento d'oro e Madonna ci si immerge fino in fondo, sia come semplice frequentatrice delle discoteche, facendo l'alba ogni notte, sia come interprete. Con il suo amico Stephen Bray lavora ad alcuni brani che il famoso DJ Mark Emmons, star del locale trendy Danceteria, programma sera dopo sera fino a diventare, convinto del potenziale di quella ragazza piccola, dal temperamento vulcanico, il produttore del suo primo singolo, Everybody. In brevissimo tempo la canzone spopola e il nome di Madonna si impone nella classifica Dance a stelle e strisce fino all'album d'esordio nel 1983, che porta un titolo eloquente, semplicemente Madonna. Tutto quello che volevo era salire sul palco e cantare le mie canzoni. Certo, non ero ancora una star, ma sentivo che mancava poco. Da ragazza di provincia con grande carisma e molte speranze a diva della disco dance, le cose cominciano ad andare per il verso giusto. Ma quando arriverà la consacrazione vera e propria? E soprattutto, come? A queste domande risponde il destino, che mette sulla strada di Madonna l'eccentrica e rivoluzionaria stilista tanto cara a Warhol, Maripol. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo nel 1983 e una grintosa Madonna, dopo aver cantato qualche brano di disco dance, ha appena lanciato il suo album d'esordio. Tutto questo però non le basta. È da quando è una bambina che sogna senza pudore ad ammetterlo di diventare una stella. Da sola, acerba e inesperta, per quanto talentuosa, non ce la può fare. Ha bisogno del sostegno e soprattutto dei consigli di qualcuno che le possa far scalare l'Olimpo della musica, a partire dalla scelta del look, che nella società dell'immagine ostentata è fondamentale. La donna del suo destino è la giocosa stilista Maripol. Quella biondina voleva avere tutto. La prima volta che l'ho incontrata è stato a Roxy. Sul palco del locale c'era Five Fab Freddy che rappava e mi aveva chiesto di trovare delle ragazze che salissero con lui ad accompagnarlo. Io ho visto Madonna in piedi in un angolo, così genuinamente carina, e l'ho mandata su in reggiseno. Il giorno dopo, Madonna si presenta nel loft di Maripol con il suo migliore amico, Martin Burgoyne, per chiederle di creare uno stile su misura. Maripol intuisce subito che la ragazza farà strada e non ci pensa due volte. È venuta da me e le ho semplicemente messo una serie di cose addosso. Stavo già producendo la gioielleria di gomma e già producevo le croci, dato il mio amore per i punk. Era perfetto su di lei. E parlando degli indumenti, Erica Bell le faceva molti dei suoi vestiti. Io le davo vestiti di fiorucci ed era un mix di tante cose. Per Madonna è la svolta. Adesso è sexy, provocante, irriverente, fuori dagli schemi. Indossa pizzi e merletti da signora per bene che su di lei diventano strappati, sgualciti, lacerati. Più che abiti, sono pezzi di lingerie che per la prima volta vengono esibiti senza inibizioni. Ai polsi ha bracciali di gomma colorata e catene che evocano la durezza del punk. E al collo lunghe collane di perle mescolate a rosari e croci tradizionali. Il suo abbigliamento sintetizza perfettamente la confusione di donne e caratteri che racchiude nella sua anima e che sono la forza che ha dentro per sfondare davvero. Maripol è riuscita già dopo il primo incontro a capirla come nessun altro aveva mai fatto prima. La sua voglia di sfidare i dogmi della religione cattolica, il suo spirito libertino nel sesso e nella vita, la rabbia verso un mondo da provocare quotidianamente. Like a Virgin fa scalpore non soltanto per il testo, ma soprattutto per la nuova immagine di Madonna, meno dance e più sensuale, che le è stata letteralmente cucita addosso da Maripol. Prima in America e poi in tutto il pianeta partono ondate di entusiasmo che fanno sì che il pezzo sia primo nelle classifiche internazionali. La giovane italo-americana, originaria del Michigan, comincia ad essere riconosciuta e fermata per strada dai fan. Dipende dal mio umore. Per me è stupendo essere assediata dalle persone che mi ascoltano, che vogliono sapere tutto di me, che mi stanno vicino. È quello che ho sempre desiderato, ma a volte è stato anche pericoloso. Ho un'immagine pubblica e mi hanno telefonato, mi sono venuti a bussare alla porta di casa. Questo aspetto mi ha sempre fatto un po' paura. Maripol accende le luci della ribalta su Madonna, che da quel momento in poi non smetterà di essere sulla cresta dell'onda. 30 anni di carriera senza mai finire nell'ombra, neanche per un momento, reinventandosi continuamente nel lavoro, nella vita e nel look. Anno dopo anno, album dopo album, senza mai dimenticare chi è, come le ha insegnato la sua amica che la segue sempre da lontano e che cerca di non mancare mai a un suo concerto. Madonna è sempre stata onesta con me. Mi ha raccontato la tristezza che aveva per aver perso sua madre, le difficoltà che aveva nel cercare di essere un'attrice e una cantante allo stesso tempo e l'orrore che provava nel vedere tutti i nostri amici distrutti dalla droga. Le ho detto che se voleva diventare una grande, doveva rimanere pulita. È questo quello che rende le persone di successo, il fatto che abbiano una forza propria. Maripol, dal canto suo, grazie alla cantante, entra a pieno titolo nell'Olimpo della moda. Tutti la cercano per suggerimenti, indicazioni, dritte su come muoversi per catturare l'attenzione. Cher, per esempio, che dopo aver visto il video di Like a Virgin, vuole assolutamente diventi la sua stylist. Madonna e Maripol, due ragazze con una storia in comune, arrivate a New York con pochi dollari e molte speranze, che si sono armate di pazienza, fantasia e un pizzico di follia per riuscire ad essere felici. Go, go, go. Go, go, go.